Buon pomeriggio, le 14 in punto, giovedì 15 ottobre del 2009, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, il consueto appuntamento con il cinema visionario ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sul sito www.ondarossa.info, dove troverete il link per riascoltare la puntata precedente e poi gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, link poi per dare un'occhiata a interviste e recensioni e infine la settimana televisiva, i film su piccolo schermo, quello che vi consigliamo per trascorrere un po' di tempo vedendo opere cinematografiche anche in televisione. Allora, diamo subito inizio ai tanti contatti, perché cominceremo intanto, parleremo soprattutto di festival, ma anche di opere, per cui il primo ospite è Valerio Ialongo, con cui ci metteremo adesso in contatto. Valerio Ialongo, pronto? Arrivederci, buongiorno a tutti, noi ci siamo visti da poco, per cui... Sì, e ci eravamo anche sentiti per il tuo film precedente. Sì, qualche tempo fa. Qualche tempo fa, perché gli intervalli sono lunghi, come cerco di raccontare nel mio documentario. Allora, regista del documentario di Me cosa ne sai, che sarà nelle sale da domani, racconta a chi ci ascolta di cosa si tratta. Ma... è un tentativo, diciamo, di usare il cinema in una maniera così leggera, perché ormai con questi nuovi mezzi si possono fare film indipendenti che costano relativamente poco e che permettono di affrontare degli argomenti che altrimenti non si possono più raccontare, perché la televisione è ingessata con meccanismi come quello dell'Auditel che impediscono tutto ciò che è complesso, tutto ciò che è che genera ansia, no? E quindi mi sembra che si apra un nuovo spazio per il cinema, e noi abbiamo cercato di raccontare così, di capire cosa era successo 30 anni fa, quando improvvisamente il nostro cinema è stato in qualche modo così espiantato nel giro di 2 o 3 anni, quella che era la cinematografia più forte dell'Occidente dopo quella americana è praticamente svanita. E da questa domanda poi siamo risaliti fino alla situazione attuale, sia dal punto di vista culturale che politico in Italia. Il tuo documentario riveste un po' il ruolo di quello che doveva essere inizialmente il film bianco dei 100 autori, o sbaglio? Ma in realtà il film bianco era iniziato con un gruppo di registi di Ring, sì, che è, scusa, diciamo così, un'associazione precedente ai 100 autori. Ma sì, in effetti, come racconto anche nel film, è molto difficile riuscire a fare dei film collettivi. Sì. Quindi noi siamo partiti con questa idea, abbiamo lavorato insieme per un po' di tempo e poi diciamo così, io sono stato forse il più tenace o quello che aveva più motivazioni per andare avanti, credo. Anche diciamo, se c'erano diverse impostazioni, no? Quindi poi alla fine anche quello può essere stato una difficoltà, cioè trovare un'impostazione che convincesse tutti, che piacesse a tutti. Sì. Io chiaramente ho fatto il mio film e quindi ho anche voluto cambiare il titolo per rispetto a quello che invece era un'impresa collettiva che almeno per il momento non ha visto la luce, insomma. Senti, ma tu analizzi anche diversi aspetti dal tuo punto di vista, anche quello di quello che è successo ad alcuni principali produttori negli anni 70 qui in Italia. Sì, sì, in effetti quello è uno dei misteri non chiariti, no? Sì. Non, diciamo, perché improvvisamente nel giro di 3 anni Ponti, Grimaldi e De Laurentiis, che sarebbe a dire come, non so, la Fiat in campo automobilistico, prendono e se ne vanno tutti e 3 in America. In quegli stessi anni, diciamo proprio quasi in contemporanea, parte la televisione commerciale, che dà poi il colpo di grazia, sì, alla struttura industriale del cinema, no? Al mercato, sì, che consentiva la libertà, l'indipendenza, la vitalità del nostro cinema. Sì. Ecco, mi sembra che questi sono temi che apparentemente sono lontani, ma che invece ci riguardano molto da vicino, perché da allora mi sembra che non solo nel cinema, ma forse si può dire anche in altri settori della nostra vita culturale ci sia una mancanza di indipendenza. Infatti io ho diciamo, dedicato il film a Silvio Clementelli, che era un produttore indipendente, come ce n'erano tanti in quegli anni, che consentiva di fare film, cioè lui faceva film magari di grande successo come Malizia, ma poi anche produceva film di Bellocchio, della Cavani, e film di qualità. Quindi queste tante voci, a me sembra che si possa dire, consentissero una libertà e una varietà che oggi non si trova nel nostro panorama culturale. Mm-hmm. Oh, rispetto alla televisione tu affronti diversi discorsi, come ad esempio, come citavi prima, quello dell'Auditel, dell'interruzione pubblicitaria relativamente ai film, e questo ha fatto in modo che, come riporti tu anche nel documentario, in 5 anni sono andati persi 350 cinema. Sì, negli ultimi 5 anni nelle sale, diciamo le sale dei centri storici soprattutto delle nostre città, hanno chiuso in gran numero, circa 350, mm-hmm, e purtroppo è una tendenza che non accenna a fermarsi. Allora, questo è un impatto non soltanto sulla possibilità di vedere film più diversi, magari più, se vogliamo, artistici o originali o europei o che vengono da altri paesi del mondo, ma è anche un problema proprio di identità delle nostre città, cioè il fatto che si sposti tutto l'intrattenimento nei multiplex, come racconto, come faccio vedere nel film, non significa soltanto dare un enorme spazio al cinema americano, perché poi nei multiplex si vede quasi esclusivamente il cinema americano e forse il film di Natale, insomma, ecco. Sì. Quindi è un problema sia di offerta culturale che si restringe, che si riduce appunto ancora di più su quella americana, ma proprio anche un problema di vivibilità delle nostre città. Insomma, noi abbiamo straordinari centri storici, quando si chiudono le sale del centro, il centro si impoverisce, la sera diventa un mortorio. Anche, non parlo soltanto di città di piccola o media taglia, ma anche Milano. Insomma, sì, Milano è un caso straordinario, aveva tantissime sale nel centro storico e una a una hanno chiuso praticamente tutte, e nella zona proprio centrale di Milano, dopo le 7 di sera, sembra di stare in un paesello di provincia. Insomma, sono questioni su cui bisognerebbe riflettere, credo, al di là della passione o meno del cinema, insomma. Senti Valerio, in chiusura, c'è in rete qualche sito con informazioni specifiche sul tuo lavoro, e poi in quante copie uscirai domani? Ma guarda, non c'è un sito ancora, credo che ci sia un sito solo dell'Istituto Luce che ci tengo a dirlo, ha preso il film dopo che già ci lavoravamo in maniera indipendente da 3 anni, sì, e che tutto sommato ci ha fatto lavorare in totale indipendenza, quindi io continuo a considerarlo un film totalmente indipendente, sì, perché non ha avuto nessun tipo di... cioè mi avevano chiesto veramente di togliere tutto ciò che riguarda Berlusconi, io ho detto di no e la cosa è finita lì, insomma, ecco, non sono stato costretto, quindi vuol dire che uno può anche resistere a certe forme di, sì, di diciamo di così, di come posso dire, conformismo culturale, chiamiamole. Sì, sì. A volte nascono anche preventivamente da parte degli autori. A volte stessi. Ci sono delle autocensure, appunto, con i famosi, quelli che sono più realisti del re, si dice, no? Ecco, ce ne sono molti in giro, specialmente in questo momento. Ma io spero, dunque, noi usciamo con, credo, 8 copie, che per un documentario non sono male. Spero che dopo aver visto Videocracy, ecco, questo, qualcuno a Venezia diceva, questi due film sono in qualche modo, hanno in qualche modo, no, uno stesso modo di rappresentare, cioè modo molto diverso, ma comunque rappresentano facce simili del paese, insomma, ecco. Noi siamo andati più indietro nel tempo, però arriviamo anche noi all'oggi, insomma. Vedremo che succede. Vedremo che succede. Valerio, in bocca al lupo, grazie e a presto, speriamo. Crepi il lupo, a presto. Ciao, ciao a tutti. E questo era Valerio Ialongo, regista del documentario Di me cosa ne sai, da domani in sala. Andiamo a parlare di festival. Buongiorno a Mario Sesti, direttore della sezione Extra Altro Cinema della 4ª edizione del Festival del Cinema di Roma. Ben trovato. Buon pomeriggio anche a voi. Come va? Ci siamo. Beh, insomma, siamo in quel clima carico di isteria e di minaccia che dà la carica a chi fa questo lavoro, diciamo. Allora, da molte parti si considera la tua sezione la più interessante, diciamo, del festival. Volevo chiederti subito, quest'anno come sarà il panorama? Ma guarda, adesso potrà sembrare squallidamente, come dire, compromissorio. Io credo che Piera abbia fatto un gran lavoro per il concorso. Mm-hmm. Credo che se ho avuto una fortuna è quello, il fatto che la mia sezione ha raggiunto una sua identità forse prima degli altri. Sì. Però ognuno ha i suoi tempi e questa è una creatura ancora giovanissima, ha 4 anni, certo. Spero che, credo che questo sia un processo per certi versi in divenire. Sì, sì, sì, sì. Parliamo della sezione extra. Allora, intanto la mole dei film che saranno visibili, da quanti paesi provengono, insomma, tracciamo un po' un quadro. Ma appunto credo che tu conosca abbastanza bene la sezione, la cui logica è quella della buffata, della bulimia, cioè, tuffarsi a volo d'angelo sul buffet, diciamo. E c'è una sezione di documentari che poi il successo, la cui attenzione è cresciuta così tanto che il festival stesso ha deciso di istituire un premio ufficiale che si chiama Cavaliere d'Argento. E lì, come al solito, noi cerchiamo di andare proprio agli antipodi di una cosa verso un'altra. Sì. Ci sono le lottatrici, le wrestler boliviane di un documentario che si chiama Mamachas del Ring, girato da una bravissima documentarista americana che si chiama Betty Park, ma c'è l'Iraq girato da un vero marine che si chiama Mike Scotti, che insomma sembra quasi una roba da Stanley Kubrick. Ci sono molti documentari che hanno come tema l'arte, ecco, se c'è un filo rosso probabilmente un po' questo, con Artist PIN 2011, che è bellissimo, pensate, la storia di uno writer di strada che fa delle cose stranissime a Berlino, non si fa mai riprendere in volto e poi alla fine viene ucciso, non si capisce se in maniera intenzionale oppure meno, da un poliziotto, oppure Latte e Caffè su questo grande designer napoletano che si chiama Dalisi. E poi naturalmente però ecco, non c'è solo il documentario, perché se il documentario è un po' cresciuto, ma chiunque l'altro anno ha visto i film come Jean-Claude Van Damme, Louis Michel, sa quanto siano importanti anche per il pubblico di extra i film di finzione. Quest'anno consiglio, se posso permettermi, due cose veramente particolari. Uno è The Afterlight, prodotto altissimo, lo dico subito, film impegnativo, quindi viaggiamo, i modelli sono Tarkovsky, Antonioni, Sharunas Bartas, però è fatto da due ragazzi lituani che tra l'altro conoscono, due ragazzi americani di Brooklyn, uno dei quali conosce Roma credo meglio di me, sono grandissimi amanti del cinema italiano, però hanno fatto questo film che ha un lavoro sull'immagine, sembra quasi cinema muto, veramente straordinario, The Afterlight. E poi questo Simon Konianski, che è una specie di road movie comico tra i luoghi dell'Olocausto, siamo il bel solco tracciato da Benigni e da Trendevi. Parla di cose molto tragiche ma con un humor tossico, appassionato, molto divertente, e credo che uscirà, so che ci sono trattative con una distribuzione italiana perché venga distribuito in Italia, quindi credo che sarà possibile vederlo anche. E poi scusa, Bunny and the Ball, ecco, per chi ama Terry Gilliam o Gondry, è un estro visivo, grafico, visionario, è uno che praticamente fa un road movie invece nella propria testa, nella propria stanza, con una capacità di creare immagini, forme, segni, eccetera, che è tipico di quei registi che ho nominato. Chi ama quel tipo di cinema, che è anche un cinema che ha dato moltissimo al grande schermo negli ultimi anni, lo gradirà sicuramente. Mario, rispetto alle passate edizioni, hai mantenuto dei tratti di continuità, e quali sono invece i punti in cui hai cercato più innovazione o cercato una direzione diversa? Ma innanzitutto c'è un'indicazione di strategia che io ho ribadito più volte anche nelle altre edizioni, c'è stato un rassodamento, calcola che la prima edizione aveva una roba tipo una quarantina di programmi, ma era un programma ingestibile, era una specie di, non so, di impero sconfinato che nessuno controllava, diciamo. E adesso siamo intorno alla trentina e credo che siamo arrivati un po' al profilo d'equilibrio, no? Sta prendendo come una sua forma, insomma. Sì, insomma, credo che più di forma, forse, dato che quest'anno c'è anche un film, Giulia e Giulia, tutto dedicato alle ricette, no? C'è una ricetta, quella ricetta di extra è innanzitutto goditi gli attori che ti piacciono tanto, senza alcun senso di colpa, no? Meryl Streep è una cosa che piace a tutti, no? Si può abitare in un centro sociale oppure fare la casalinga, no? Cioè, e credo che chiunque gli piacerebbe semplicemente starla a sentire parlare oppure avere quel senso di intimità provvisoria che credo abbia fatto la fortuna degli incontri, no? L'idea di trovarsi nella stessa sala per un paio d'ore, come se uno potesse ascoltare nel loro salotto Al Pacino o De Niro o Sean Connery o Jane Fonda o Sofia Loren, eccetera eccetera. Poi no, questa cosa dei documentari, una volta era un genere proprio di nicchia, oggi stiamo a vedere District 9, non è un documentario? Cloverfield non è un finto documentario? Rec è uno dei più begli oro degli ultimi anni, non è un finto documentario? È una forma di particolare incandescenza nel cinema d'oggi, anche nel cinema di consumo, e racconta con una maniera romanzesca, tutt'altro che noiosa, oggi delle cose che sono successe veramente. E poi ci stanno, però ecco, insomma, esplorare anche i margini del buffet. Ci sono i corti, sono straordinari, della University of Southern California, fatti da giovanissimi diplomati. Quelli sono i lastri del futuro, sono veramente belli. Però adesso mi rendo conto che siamo un po' un venditore di tappeti, però avendo lavorato a questa cosa per tutto l'anno, mi appassiono un segnale, qualcosa in cui ho creduto molto. Bene Mario, allora in bocca al lupo e a risentirci presto. Ok, Crepi, grazie tantissimo a voi come al solito della vostra affettuosa attenzione. Un abbraccio, ciao. A presto, ciao ciao. Mario Sesti, direttore della sezione Extra, altro cinema, del quarto Festival del Cinema di Roma, dal 15 al 23 ottobre. Si va avanti e questo è Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci al telefono con Rubino Rubini, direttore della sesta edizione del Doc Fest a Roma, ancora a Roma, dal 16 al 21 ottobre. Ben trovato. Ben trovati a voi tutti. Come stai? Ma io sto, insomma, non lo so. Passiamo a un'altra domanda. Fammi una domanda di riserva. Allora, si comincia domani. Intanto raccontiamo a chi è all'ascolto di cosa si tratta. Sì, allora dunque si tratta di un, diciamo, come insomma, una rassegna collaterale, diciamo, nel merito all'interno di la festa del cinema di Roma. Sì. Rispetto insomma, a tutto l'ambaradan del festival, direi che ci siamo posizionati bene, nel senso che ci siamo intanto rivolti a un pubblico, diciamo, fra virgolette, accademico, scolastico, aprendo una finestra importante alla facoltà di architettura nell'Aula Magna. Sì. Quindi questo, diciamo, no, consente anche di dare altri veicoli, altri spazi, altri luoghi, no, alla frequentazione documentaristica, che sono luoghi di solito ingessati, un po', insomma, che presso i quali comunque è difficile raggiungere quel pubblico che ci interessa, il pubblico giovane. Invece gli anzianotti come me la sera alle ore 21 si recheranno col passo incerto a Via degli Scipioni al celeberrimo cinema Arturo Scipioni. Mi piace col passo incerto. Beh sì, ormai dopo una certa età vedrai tu stesso. E dove saranno accolti anche lì da una serie di cose, invece, di film dedicati all'arte, al ballo, al cinema, alla danza, al teatro, insomma è tutta quella cosa. Ci fa piacere moltissimo andare all'Azzurro Scipioni, perché insomma, voglio dire, anche questo era un piccolo se vuoi un piccolo neo da parte dell'industria o comunque della cultura romana che si esprimeva attraverso il festival, che poi di fatto l'unica sala, una delle pochissime a Roma dove storicamente si fa cinema d'essè, chiamiamolo così, o comunque cinema da festival, o comunque cinema che altrimenti non si può vedere, non era mai stata coinvolta nell'iniziativa. Lo è, sì. E quindi ci fa piacere, anche perché una lunghissima, insomma, mi lega a Silvano Agosti, un'amicizia antica, e lui stesso appunto mi ha detto strano, poi fanno il festival da anni, a me non mi hanno mai chiamato, e quindi lui è tutto contento. Mm-hmm. L'ingresso è gratuito, sì. Io mi metterò sulla porta col cappello, però fingerò di essere diciamo un extracomunitario, e quindi non so, magari qualcuno mi darà qualche euro. E quindi niente, bene, siamo contenti, siamo un po' agitati perché immagino gli ultimi giorni, cominciamo domani sera, quindi domani alle 18 in Aula Magna all'Università a Valle Giulia, domani sera alle 21 incominciamo lì. Insomma, la roba che facciamo vedere è bella, dai. Senti, un tratto, cioè, se c'è un tratto comune denominatore di rispetto alla mole di opere che presenterete? Guarda, intanto la mole di opere è potendo essere, come dire, la forza di un festival, credo, mm-hmm. appartenga più che altro a chi è stato escluso dal festival stesso, purtroppo. Mm-hmm. Io sono stato escluso tante volte, quindi ho una certa esperienza. nel senso che ovviamente se uno, come dire, sceglie i suoi 40 film, 47, quanti ne scegliamo noi, eccetera, da centinaia di film arrivati, ovviamente ha la possibilità di fare una scelta, diciamo, veramente cogliendo di fiore in fiore al meglio. Sì, poi sì. Sai, il nostro festival è un po', diciamo, insomma, è sempre costituito attraverso, come dire, la nostra idea di fondo. Abbiamo una piccola idea fra le altre, però è quella che più, insomma, ci rappresenta, quello un po' di far conoscere anche la gente che in Italia fa sto lavoro, no? Mm-hmm. Perché sennò sembra che in Italia, no, proprio non ci sia tavola rasa, che ci sia, no? In realtà gli italiani che fanno le cose trovando i soldi per vie disperate, eccetera, ci sono e fanno anche cose belle. Mm-hmm. E in più ovviamente assommiamo queste cose belle mettendole in qualche modo anche in relazione, in modo che gli stessi autori italiani possano relazionarsi, perché i nostri film, come tu immaginerai, o li vedono qui, quello che vuole vedere il film X, o lo viene a vedere dopodomani sera, o il film Y mercoledì pomeriggio, oppure non lo vede. Mm-hmm. Non è che c'è un altro posto dove si vedono. E quindi, insomma, non so come dirti, credo che la cosa importante sia quella di permettere, diciamo, a un pubblico che ci viene a trovare in una sera, vede un bel film su, non so, su un autore cinematografico, non lo so, su Buñuel, sì. Poi vede, non lo so, il primo fumetto realizzato in Lettonia da una signora molto carina, anziana, che diventa fumetto, poi vede due o tre piccoli film sperimentali, cioè nel senso che può avere, no, in una sola sera un piccolo percorso dentro una documentaristica, e anche autori e anche situazioni. Io faccio un esempio: ieri ho riguardato un film fatto da un regista che si chiama Kestenholz, un regista svizzero. Sì. Beh, non è colpa sua, è nato lì, non è colpa sua. Che per esempio parla di Domenico Fontana, per dirti invece un filmato classico, dove io, che proprio sono ignorante, ma non proprio a livelli abissali, cioè in un'ora di film, 50 minuti di film, ho imparato mille cose, anche solo questo, banalmente, no? È una cosa che dovrebbe spingere un pubblico a venirci a vedere. Uno abita a Roma, e dove Fontana ha fatto di tutto e di più, e come dire, e, insomma, onestamente, cioè, quello sta lì, in tre quarti d'ora impara una lezione, e la impara, la vede, capito? La impara vedendola. Mm-hmm. Cioè, il documentario ha questo di buono, a differenza del servizio banale, no, giornalistico, oppure di Sereno Variabile. Mm-hmm. Che non si impara niente, no? Pensi di sapere tutto, invece non sai niente. Poi alla fine dice: adesso vediamo cosa cucinano qui la cucina regionale, diciamo, della Val d'Aosta. Noi non, quello non lo facciamo. Senti Rubino, per saperne di più c'è un sito internet? Per saperne di più c'è un sito internet, www.docfest.it. Perfetto. Allora, in bocca al lupo. L'ingresso è gratuito. Ecco, sottolineiamo. Sì, sì, fai bene. Aspetta che c'è una mia amica che mi suggerisce. Cosa? Oltre al... è scritto, sì, e poi c'è un gruppo su Facebook. Ah, sì. No, io non pratico. Io nemmeno, però qua tutti lo fanno, allora vabbè. Io lo faccio per me, anche per conoscere ragazze, che ne so. Ma non credo che... Vabbè. Un abbraccio e un a abbraccio presto, anche Urbino. A te, grazie a tutti, saluto a tutti quelli che ci ascoltano e baci. E ci si vede. Va bene. Ciao. Rubino Rubini, direttore della sesta edizione del Docfest a Roma dal 16 al 21 ottobre. Ci spostiamo a Lucca con Nicola Borrelli, presidente di Vistanova, associazione che organizza la quinta edizione del Lucca Film Festival dal 17 al 23 ottobre. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene, siamo addirittura di partenza, non d'arrivo. Guarda, quest'anno alla quinta edizione, ma siamo sempre tutti molto giovani, una delle caratteristiche che ci contraddistingue, penso. Un festival giovane, di giovani. Ma credo che siamo più giovani d'Europa, non vorrei dire, ma un festival così. Addirittura? Siamo tutti 25 anni. Cosa c'è, un limite imposto? No. No, vi siete trovati naturalmente così, 25 anni all'opera. Sì, è un festival che in effetti è ancora più singolare perché non è nato a tavolino da un progetto politico, istituzionale. Ci siamo trovati noi giovani, abbiamo proposto alle istituzioni locali un evento che poi nel corso degli anni è sempre stato sostenuto ed è diventato un festival di cui andiamo molto fieri, che ha raggiunto anche un respiro internazionale. In effetti, basti vedere i risultati ottenuti con il progetto Genti Puccini, che è iniziato l'anno scorso e che quest'anno continua. No? L'anno scorso abbiamo commissionato a 15 registi che ci conoscono e che ci stimano di regalare un cortometraggio alla città di Lucca e al festival su Puccini. Questi cortometraggi hanno fatto il giro di tutti i principali festival, dalla Biennale, Oberhausen, il Festival di Toronto, New York. E considera che solo in ottobre, ora, mentre stiamo parlando, ci sono 6 festival, Buenos Aires, Hong Kong, Montreal, che stanno passando sempre i 20 Puccini. E ne presentiamo 2 nuovi, perché dobbiamo arrivare a 20, giovedì 22, all'interno di questo nuovo festival. Bene. Senti, raccontaci un po' le caratteristiche portanti di questo festival, che è alla quinta edizione, quindi un po' avrà trovato il suo indirizzo, insomma. Sì, quest'anno abbiamo, per quanto riguarda ormai una nostra tradizione consolidata, di portare a Lucca grandi maestri della scena internazionale sperimentale, sì. Abbiamo Robert Cahen, un maestro francese della videoarte che ha studiato con Pierre Schaffner, l'inventore della musica concreta, e per il terzo anno, con nostro sommo piacere, facciamo noi la retrospettiva filmica di Cahen e la Fondazione Radiante di Lucca, nei suoi spazi museali, una bella mostra sulle videoinstallazioni. E è un modo di approcciarsi ai percorsi più di ricerca, più sperimentali, che fa un tutto tondo intorno all'artista. E in una settimana uno può vedersi le videoinstallazioni e tutta la retrospettiva filmica completa. Questo si inserisce nel progetto dei grandi maestri, come l'anno scorso Jonas Mekas, 2 anni fa Michael Snow, e il prossimo anno vedremo. E il festival parla francese, perché al di là di Cannes abbiamo anche Luca Stel, personaggio trasversale che ha lavorato con i più grandi maestri, ma anche con i cineasti più indipendenti e radicali. Viene a Lucca anche Castel, e lo omaggiamo anche parlando con Umberto Lenzi, facendo venire Umberto Lenzi, con il quale ha lavorato nel 69 per il film Orgasmo, e cerchiamo di ripercorrere le tappe più significative del percorso di Castel. Mm-hmm. Senti, prima appunto con Castel parlavi di Francia, volevo sapere rispetto all'arte su pellicola, in quali ambiti vi siete mossi geograficamente in particolare, se ci sono zone più ricche da questo punto di vista? Quest'anno il festival, devo dire, non è che ci sia un progetto specifico, però parla prettamente francese, sì, quest'anno ci sono molte cose in francese, infatti anche il ciclo dedicato al noir, che si chiama Sable Noir, è un percorso dove cerchiamo di analizzare la tendenza del cinema francese degli ultimi 10 anni, dal noir verso l'horror un po' più spinto, il gore, lo splatter, e a margine di questo ciclo abbiamo invitato anche Guglielmo Niclou, un regista giovane ma molto promettente, che viene anche lui e sabato 17 inaugurerà il festival. Bene, bene. Oh, e a questo punto ti chiedo anche, visto che siamo alla quinta edizione, com'è il riscontro con il pubblico, con quello che si muove intorno a voi? C'è un'attenzione particolare rispetto al vostro festival? Sì, sicuramente siamo veramente contenti, ripeto, al di là delle selezioni internazionali, dei risultati più visibili sulla stampa, la cittadinanza risponde molto bene. La regione da quest'anno ci ha premiato con il loro supporto e andiamo avanti cercando di fare un festival giovane che guarda sia al passato e necessariamente e giustamente anche al futuro. Bene. Quante sono le opere visionabili? Guarda, sai che il conto non l'ho fatto. Pressa poco, su che cifre ci muoviamo? Direi un centinaio. Tutte. Solo di concorso, ecco, anche per parlare del concorso, è il quinto anno, e ci sono opere da tutto il mondo, ne sono arrivate 900 per la selezione e ne mettiamo 22 in concorso, che si passa dal Messico al Brasile al Canada, un respiro piuttosto ampio. Bene, bene. E strutturato come avete diviso, in sezioni oltre al concorso, ci sono altre sezioni? Sì, la sezione appunto Cannes, sezione Castel, concorso. Uh-huh. E Sable Noir, per il percorso che ti dicevo prima, e eventi speciali, che da quest'anno li chiamiamo fuori visione, fra gli appuntamenti un pochino più stravaganti all'interno di alcune macelline rosse più individuabili, per esempio una selezione di tutti i migliori prodotti realizzati quest'anno a New York, che si chiama New York Tupal, e li passiamo domenica 18, o i cucini stessi che ti dicevo prima, i due nuovi cucini, o Facts of Life, un film di Silvia Magliani e Graham Thompson su Deleuze, che lo presentiamo in anteprima, con una performance di Castel. Bene. Senti, ci dai a questo punto anche il sito internet per il programma? È www.vistanova.it. Vistanova.it. Nicola, in bocca al lupo e a presto. Grazie, un abbraccio. Buona giornata. Ciao, grazie. Nicola Borrelli, presidente di Vistanova, l'associazione che organizza la quinta edizione del Lucca Film Festival dal 17 al 23 ottobre. Tutte le informazioni comunque le trovate sul sito della radio, sia www.ondarossa.info, su Visionari. Continuiamo la lunga carrellata di ospiti. Benvenuto a Bruno Di Marino, direttore di Fish Eye, Festival di Sperimentazione Audiovisiva a Roma dal 15 al 20 ottobre al Nuovo Cinema Aquila. Ben trovato intanto. Grazie, buonasera a voi. Come va? Non c'è male, sono un po' agitato perché comunque festival inizia alle 5, non sappiamo ancora se ci sarà gente, se non viene nessuno, che può anche essere, insomma, in ogni caso lo sforzo è stato, diciamo, notevole in queste settimane, quindi ci auguriamo di essere ricompensati dal pubblico. Allora, come si caratterizza questa Fish Eye? Raccontaci un po'. Ma allora, diciamo, Fish Eye si suddivide, appunto, si articola in 6 giorni in cui ci saranno una serie di ospiti internazionali a cui noi dedichiamo una monografica, non so, Darobakowski, che è un grande artista polacco che appunto fa video, ma ha iniziato nei primi anni 70 a fare film sperimentali, a Terry Flaxton, che è un video artista inglese, ma sarà di passaggio a Roma anche Robert Cahen, che è uno dei più grandi artisti video, diciamo, della storia della videoarte, possiamo dire, che è anche un amico e che comunque presenterà 2 video. Poi c'è un focus sull'Islanda e avremo 2 performer islandesi che ci vengono a trovare, c'è Asdís Sif Gunnarsdottir e Sigga Björg Sigurðardóttir, scusate i nomi, ma insomma gli islandesi sono difficilmente pronunciabili. E poi ovviamente molti italiani, probabilmente una 30 di autori, tra videomaker, filmmaker, che io penso rappresentano il meglio della sperimentazione oggi, diciamo, nel nostro paese. Vanno da Salvo Cuccia a Manuele Bossolasco, da Fabio Iacuone a Antonello Matarazzo, da Roberto Nanni, a, diciamo, anche autori più giovani che comunque sono delle scoperte, sono, diciamo, degli autori ancora, diciamo, che devono uscire fuori alla grande, ma secondo me ne verranno fuori. E poi oltre a questo ci sono altre cose, eventi speciali come per esempio l'incontro con Federico Zampaglione e Tiro Mancino, che commenteranno alcuni loro videoclip, oppure un film in anteprima. Diciamo, noi abbiamo una serie di anteprime, circa 25, ma abbiamo un lungometraggio in anteprima di Franco Lo Svizzero, che è un artista visuale ma anche un cineasta, che ha riunito una 20 di interpreti italiani, tra cui per esempio Violante Placido, ma anche Miriam Catania, Roberto Zibetti, Flavia Venti, e li ha inseriti, cioè ha fatto insieme a loro un film d'artista, quindi un film sperimentale con attori, che è una cosa abbastanza unica non solo in Italia ma anche nel mondo proprio. Senti, volevo chiederti, in base alle opere che presenterete, hai trovato delle caratteristiche che le accomunano rispetto alla scena artistica contemporanea? Ma è chiaro che ci sono sempre delle tendenze che si ritrovano poi, diciamo, anche in opere come queste, che non ci dimentichiamo sono al borderline, cioè sono tra il regno dell'immagine in movimento ma anche il regno delle arti visive, insomma. È difficile adesso individuarne alcune perché stiamo parlando di 260 film, naturalmente la maggior parte sono a un cortometraggio, dove si trovano più argomenti, cioè si trovano più diciamo elementi, no, che ritornano poi, ecco, molto negli ultimi anni. Io ho cercato essenzialmente di essere ecumenico, cioè di mostrare un po' tutto, quindi dall'animazione al video musicale, al cinema sperimentale, alle cose più di videoarte, alle cose che vanno più verso la performance, alle cose che vanno più verso la musica. Ovviamente ce n'è un po' per tutti i gusti, senza tralasciare poi, ecco, quegli artisti, quei filmmaker, quei videomaker che piacciono di più alle gallerie, quindi al mondo dell'arte contemporanea, anche se io sono un po' più, diciamo, restio a mostrare autori che diciamo sono più acclamati dal mondo dell'arte, perché spesso il mondo dell'arte non capisce molto di sperimentazione, io penso. Senti, c'è stato qualcosa che ti ha particolarmente colpito, delle cose che hai visto? Ma io sono molto innamorato di questo giapponese che non conosce nessuno in Italia, si chiama Takashi Shida. Io ho scoperto un suo film che si chiama Umino Eiga, cioè diciamo film del mare, al Festival di Rotterdam, e tra l'altro è prodotto dal Museo di Arte Contemporanea di Yokohama, e tra l'altro passa oggi alle 19 in una proiezione unica, e attraverso questo film, diciamo, ho scoperto la sua opera e me la sono fatta mandare. Il problema è che lui non ci sarà, purtroppo, ma sono film molto, diciamo, interessanti, film di animazione, cioè comunque fatti in stop motion, ma in ambienti reali, insomma è un cineasta sorprendente. Ovviamente come si parla di Giappone, no? In Italia si pensa ai manga, si pensa al massimo a Tsukamoto, ecco, Tsukamoto è la cosa più sperimentale che noi conosciamo. In realtà esiste proprio un cinema d'artista, un cinema d'animazione sperimentale che a nessuno porta in questo paese, e quindi diciamo Ishida è sicuramente una delle scoperte, insomma, cioè delle proposte che noi facciamo durante il festival. Bene, senti, per il programma basta controllare sul sito del Nuovo Cinema Aquila oppure c'è? Esattamente, no, lì troverete il programma completo, basta che andate sul sito, troverete anche un po' di informazioni. Noi abbiamo mantenuto un prezzo molto politico, per esempio il pomeriggio c'è un'unica fascia, per cui per 4 ore si pagano 4 euro, e mentre invece anche la sera se ne pagano 6, in alcuni giorni c'è una suddivisione in 2 fasce, per cui c'è un doppio biglietto, ma perché ci sono comunque degli eventi così importanti che non potevamo farne a meno. Poi tenete presente appunto che il Cinema Aquila è produttore di questo evento, quindi noi veramente facciamo un festival con pochi soldi, ma è importante anche per questo che la gente capisca che manteniamo i prezzi bassi, ma vogliamo che si paghi, perché altrimenti purtroppo non possiamo farlo gratis, altrimenti io vorrei molto. Va bene, allora un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie Crepi e arrivederci. E ci vediamo al festival. Ciao Bruno. Ciao, grazie. Bruno Di Marino, direttore di Fish Eye, festival di sperimentazione audiovisiva a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 15 al 20 ottobre. Un altro paio di collegamenti, ce la facciamo sicuramente. Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville, eri pronta proprio per questo collegamento? Dimmi. Ero in attesa fervida. Come state? Tutto bene? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, qui tutto bene, dai. Bene. Ce la facciamo, dai. Dimmi Federico, dimmi. Allora, quest'oggi veramente stiamo parlando di un sacco di festival, quasi tutti a Roma. Bene. E parliamo però anche di una monografia che stai curando, è partita ieri, su Leonardo Sciascia, da fino al 19 ottobre. Parlaci un po', dici di cosa si tratta. Allora, è un omaggio al grande scrittore Leonardo Sciascia, che proprio il 20 novembre del 1989 moriva. e quindi abbiamo colto l'occasione di ricordarlo attraverso appunto questo anniversario della sua scomparsa, per un motivo molto semplice, perché a noi ci sembra Leonardo Sciascia, a distanza di anni, ancora un autore fortemente contemporaneo, fortemente, e per le cose scritte naturalmente, e per tutti quei registi che in qualche modo hanno preso dai suoi libri la carica, quella carica giusta per poterli poi raccontare attraverso le immagini in movimento un'Italia del passato, perché legittimamente si può dire il passato adesso, che però per certi versi, se guardiamo poi ad alcuni di questi film, torna preponderante, con tutta la sua forza, con tutta la sua presenza e con tutte le cose positive e negative del nostro popolo, insomma, no? E quindi Leonardo Sciascia, questa capacità letteraria così forte, così autonoma, così impegnata dal punto di vista civile, in qualche modo forse ci aiuterà anche per oggi a guardare la realtà del nostro paese con occhi diversi. Va anche detto un'ultima cosa, che una delle cose belle di Leonardo Sciascia, a parte la bellezza della scrittura, l'incisività della scrittura, è anche questo suo aver voluto utilizzare un genere che è un intreccio, un genere che è quello poliziesco, che è un contenitore come dire, adatto a chiunque, a qualunque tipo di spettatore, e che quindi è in grado di trascinare proprio lo spettatore all'interno di una storia che a prima vista sembra soltanto tra virgolette poliziesca o gialla, che poi in realtà nasconde ben altro, che è la cosa che ha affascinato probabilmente tutti i registi che si sono poi, tra virgolette, azzardati, ma secondo me in alcuni casi con estrema capacità, a proporre appunto intrecci gialli alla Leonardo Sciascia, da testi di Leonardo Sciascia. Senti, per questo... Dimmi. Dai, no, finisci, dai, stavi dire. Volevo solo dire una cosa che non c'era nel programma, ecco perché ti stavo togliendo la parola. È solo questo, è che c'è stasera una new entry in realtà, perché noi stasera proiettiamo Il giorno della civetta di Damiano Damiani, ma in realtà prima del giorno della civetta, grazie a fortunati incontri che nei cineclub succedono, siamo riusciti ad avere nostro ospite il nipote di Leonardo Sciascia, Fabrizio Catalano Sciascia, che questa sera, prima del giorno della civetta, presenterà il suo documentario, peraltro vincitore del premio Imaglie 2008. Lui si chiama appunto Fabrizio Catalano Sciascia, e il documentario, che è un mediometraggio di 27 minuti, è Come la civetta quando di giorno compare. Quindi ci abbiamo pure questa fortuna, oltre che delle letture tratte da romanzi brevi a cura di Patrizia Berlicchi e dell'attore appunto Fabrizio Piotti. Quindi abbiamo fatto un collegamento proprio nel momento giusto. Sì, perché noi non abbiamo scritto questa cosa in comunicato stampa, in quanto non lo sapevamo, Federico. E quindi mi fa piacere però che abbiamo comunque una presenza importante, tra virgolette, familiare all'interno di questa nostra piccola rassegna, insomma. Senti, quanti sono, a proposito di piccola rassegna, quanti sono i titoli che avete scelto legati alla figura di Sciascia? Noi abbiamo scelto quelli che, tra virgolette, ci piacevano di più, e quindi sono sei. Ieri abbiamo fatto vedere a ciascuno il suo di Elio Petri, e stasera c'è Il giorno della civetta di Damiano Damiani, domani c'è Il cadavere eccellente di Francesco Rosi, poi riproponiamo Petri perché è un nostro grande regista di riferimento ad Alphaville, con Todo Modo, poi ci sarà il penultimo giorno appunto Porte aperte di Gianni Amelio, e infine Il consiglio d'Egitto di Emilio Greco, che è uno degli ultimi film tratti da Sciascia del 2002 con Silvio Orlando. Molto bene, tanto tu ci terrai sempre aggiornati su quello che organizzate, e avremo modo quindi di risentirci. Ma certamente spero di vedervi tutti, spero di vedere anche te, Federico, vi ringrazio per il collegamento e vi auguro un ottimo pomeriggio. Un abbraccio, ciao Patrizia. Ciao, ciao Federico, ciao. Oh, vediamo un po' a questo punto se riusciamo a stabilire un contatto per parlare di un altro festival qui a Roma, oppure proviamo anche a contattare i nostri visionari che stanno circolando al Festival del Cinema di Roma. poi siamo riusciti a stabilire il contatto con Iria Lopez Fuenteseca della della sesta edizione del Festival Audiovisivo della Biodiversità, da oggi al 18 ottobre qui a Roma. Intanto ben trovata. Grazie. E poi devo dirti sinceramente che io non conoscevo l'esistenza di questo festival, per cui sono curioso di sapere di cosa si tratta. Guarda, noi facciamo, questa è la sesta edizione ormai, sì, di un festival che dedichiamo alla biodiversità, sovranità alimentare, ambiente, ecologia, tutte queste tematiche. Lo chiamiamo il Festival della Biodiversità. Sì. Facciamo delle proiezioni, quest'anno saranno 30 proiezioni di film, dai cortometraggi, che sono 12 cortometraggi che si potranno vedere su arcoiris.tv, anche votarli e quindi assegnare il premio al miglior cortometraggio. Sì. E poi i lungometraggi che si dovranno proprio vedere qua e nella nostra sede del festival, che è il Centro di Cultura Ecologica. E la domenica faremo la premiazione sia del miglior corto che abbia scelto il pubblico, che del miglior lungometraggio, che sarà scelto dalla nostra giuria di quest'anno, composta da Cito Maselli, sì, un regista molto consacrato, Jeremy Cerfas, che lavora per Bioversity International, e Danilio Ricciardello, che è un regista esordente che ha sempre trattato queste tematiche delle quali ci occupiamo noi. Senti, volevo chiederti appunto, con le opere che avete scelto sulla biodiversità, ci sono dei temi che avete scelto in particolare di trattare, e poi da dove vengono, da quali parti del mondo arrivano? Guarda, i video vengono da tutte le parti del mondo, abbiamo, sì, video dall'India, l'America, Africa, un po' di tutto. Poi, sì, facciamo speciale attenzione a parlare dei diritti dei contadini e della situazione, ecco, che, ecco, i contadini nel mondo stanno soffrendo. Sì. Quali sono i problemi principali che incontra l'agricoltura di base? Ormai quelle che, diciamo, stanno diventando famose, dall'OGM, dalla lotta contro l'OGM a, diciamo, la presenza massiva di multinazionali e monocultivi dappertutto. Un po', diciamo, tutte queste tematiche che ultimamente, tra l'altro, stanno avendo molto riscontro nei media, sì, nei, sì, media tradizionali, diciamo, stanno cominciando ad uscire tutti questi problemi. Senti, come l'avete strutturato il festival? Come è organizzato? Raccontaci. Guarda, domani ci sarà la inaugurazione, sì, dopodiché avremo dei video, uno dei quali molto conosciuto ultimamente, gli stanno dando, diciamo, molto sostegno, si chiama The Age of Stupid. Le serate le dedicheremo a degli spettacoli musicali con artisti consacrati, e domani ci saranno i Ted Devois, sì, sabato ci sarà Andrea Rivera, sì, e la domenica ci sarà una poetessa brasiliana, il suo nome è Marcia Teofilo, lei fa delle poesie sull'Amazzonia e verrà, diciamo, a leggerci le sue poesie. Quindi proiezioni, ma anche musica e anche letture. Esattamente, proiezioni, musica, lettura e poi anche workshop. Domani abbiamo un workshop sulla biodiversità, in inglese, fatto per ragazzi che vengono da un progetto del Servizio Civile Internazionale, sì, quindi faremo una piccola introduzione alla biodiversità per loro, però aperto assolutamente a tutti. E poi ci sarà anche il sabato un mercato contadino con produttori locali che verranno a vendere i loro prodotti, e quindi si farà anche questo piccolo momento di festa con loro. Tra l'altro ci sarà sempre un punto bioristoro comunque, e quindi siete tutti benvenuti. Senti, a passare. C'è un sito internet con il programma? Sì, potete vederlo direttamente sul nostro sito di Crocevia, www.crocevia.terra.it, oppure quello specifico del festival, che sarebbe www.mediatecadeleterre.it/festivaldelabiodiversità. Molto bene, in bocca, okay, al lupo, un, grazie, abbraccio e a presto. Grazie mille. ciao. Era Iria Lopez Fuenteseca della sesta edizione del Festival Audiovisivo della Biodiversità a Roma dal 15 al 18 ottobre. Proviamo anche un breve collegamento con il Festival di Roma, a questo punto con uno dei nostri visionari. tra tanti in conferenza stampa c'è invece Piercarlo che sta apprezzando, per cui ti posso disturbare, e come? E come? Io non aspettavo altro, guarda, assolutamente. Caro Federico, eccomi qua. Oh, intanto ben trovato. Oh, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, che insomma quest'anno tutti si è dedicato a tantissimi ospiti e io non ho mai trovato spazio. Eccolo qui lo spazio, dai. Oh, perfetto, posso dire quello che voglio? Puoi dire quello che vuoi, su considerazioni intanto su questo inizio. Allora, su questo inizio di Festival del Cinema, sì. Io contrariamente penso a tutta la critica cinematografica mondiale, anziché andarmi a vedere Triage questa mattina di Denis Stanovic, che come abbiamo fatto un po' tutti. Esattamente, e quindi puoi anche dirmi se è un film che merita, così posso decidere se recuperarmelo o meno nei prossimi giorni. Puoi anche tranquillamente farne a meno. Perfetto, okay. Conserverò il mio bel ricordo di Denis Stanovic in base al passato. Ah beh, sì. No Man's Land resta lì e basta, dai. Perfetto, okay. E mi rivedo quello in caso. Riveditelo, guarda. Va bene. E sono andato a vedermi proprio a cavallo dell'ora di pranzo, quindi per questo sto mangiando ora, un film, un documentario, mm-hmm. che come spesso accade al Festival del Cinema di Roma sono le cose più interessanti da vedere solitamente, diretto da Giuliana Gamba, intitolato Sound of Morocco. Ah, ecco. Io ero stato tentato in tutti i modi, ci hanno provato a portarmi lì in tutti i modi, però io c'avevo la trasmissione, come facevo? Qualcuno doveva starci in studio, insomma. Che non, pretese. No, è forza, insomma. Comunque ti sei perso un bel film, posso dirtelo. Un film quasi interamente da ascoltare più che da vedere, non c'è quasi un momento in cui la colonna sonora o comunque le musiche non siano presenti in tutti i 105 minuti di durata di questo documentario. Ho capito. Che è una storia molto particolare, affronta praticamente il ritorno in patria di un musicista che ha fatto fortuna all'estero, in particolar modo ha fatto fortuna in Italia, un musicista marocchino, e quindi affronta quella che è la nuova realtà marocchina. Si tratta di Nur Eddin. La nuova realtà marocchina, tutta contrassegnata appunto da contrasti anche musicali per certi aspetti, quindi c'è il raffronto tra la musica neomelodica, che per certi aspetti anche Nur Eddin rappresenta, imperniata sulle tradizioni, sulla religione, su tematiche anche socialmente rilevanti come la guerra tra arabi e israeliani, e poi tutta quella che è la nuova realtà musicale del Marocco di oggi, quindi l'hip hop e la musica dei giovani, e tutta musica che poi sostanzialmente, pur veicolando gli stessi messaggi di protesta anche per certi aspetti, anche messaggi religiosi, si esprime in tutt'altro modo. Mm-hmm. È un film molto interessante per quanto riguarda proprio questo rapporto con la religione, le proprie radici, che vengono poi sradicate per andare a cercare fortuna all'estero, come spesso capita a chi viene da quei territori, insomma. Lo terremo sott'occhio. Senti, e invece brevemente facciamo anche una considerazione su quella che è la tua impressione rispetto a questa edizione del festival. Guarda, io sono un po' perplesso sotto molti punti di vista, anzitutto per quanto riguarda la qualità dei film. Mm-hmm. Ovviamente non vuol dire nulla l'assenza di grossi nomi, questo insomma non è un argomento che è a favore o meno di una critica nei confronti dell'organizzazione del festival. Quello che mi sorprende però è constatare come ancora una volta sulla carta e sulla base insomma di quello che si è potuto leggere e sentire, le cose più interessanti vengano unicamente da una sezione, che è poi una sezione collaterale, che è la sezione extra curata da Mario Sesti, che abbiamo sentito poc'anzi. Sì, esatto, sì. Per il resto io, mentre negli altri anni notavo che comunque c'era stata una scelta, un tentativo di differenziazione rispetto agli altri festival, quest'anno vedo molto purtroppo una tendenza a prendere quello che capita, quello che passa. Poi ovviamente in mezzo a queste cose possono esserci anche film e pellicole molto interessanti, però non vedo una strategia, diciamo, da questo punto di vista. Senti, chiudiamo con in maniera così secca qualche titolo di quelli in programmazione al cinema, invece, quello che ti senti di suggerire. Beh, io credo che sfonderò un portone dicendo che Up della Pixar è da vedere in tutti i modi e in tutte le salse, 3D, 2D, carta e qualsiasi altra forma. È un film straordinario di uno dei registi che a me piace di più della Pixar, Pete Docter, che ha diretto, per citare quello più famoso e secondo me anche uno dei capolavori ancora insuperati della Pixar Animation Studios, che è Monsters & Co., che è uno dei primi. Sì, anche uno dei miei preferiti, sì. Secondo me è un film straordinario, quindi su quello mi sento assolutamente di consigliare la visione. Molto bene. Io a questo punto ti chiedo anche su altri due che a me stanno a cuore, che sono The Informant e La Doppia Ora. Non so cosa ne pensi. Allora, per quanto riguarda The Informant, io devo dire che ho una predilezione per Steven Soderbergh quando mette a disposizione quello che è comunque il suo talento, particolarmente anche di cineasta indipendente, quindi anche particolarmente sovversivo rispetto a determinate tematiche, rispetto a determinate anche tecniche di regia e stile registico, quindi quindi The Informant che mi è piaciuto, lo preferisco molto Steven Soderbergh, questo Steven Soderbergh a quello sperimentale e intellettualoide a tutti i costi, sostanzialmente. Per quanto riguarda La Doppia Ora, è sicuramente un noir molto interessante, molto molto particolare. La mia paura è che quello che era una tendenza velata della Ragazza del Lago, cioè quello di fare un noir molto suggerito e non troppo esplicito, qui venga un po' esacerbata, un po' estremizzata. Sì, sì. Però è anche vero che rispetto, per esempio, al citato da te, la Ragazza del Lago, La Doppia Ora vuole parlare proprio espressamente di altro, della coppia in particolare, secondo me. È anche il ragionamento che facciamo proprio con lui, il regista, la settimana scorsa, infatti avevo colto, insomma. Sì. Fermo restando che è un film che a me è piaciuto, però appunto per quanto riguarda l'impatto col pubblico, c'è questo elemento che non so quanto poi possa essere effettivamente raggiungere poi effettivamente il pubblico, insomma. Certo che mi sento di consigliarlo, quello sì. Piercarlo, ci vediamo più tardi, mi sa. Si incontra, sì, senz'altro a questo punto. Non sul tappeto rosso. No, noi lo evitiamo come la peste proprio, non ci riguarda minimamente. Un abbraccio bello, ciao. Ciao Federico. Ciao. Bene, siamo in chiusura, da qualche istante la seconda società. E per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre alle 14. Tutte le informazioni sul sito della radio, sia www.ondarossa.info. Buon proseguimento.